140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Cinema Orfeo, Milano. La storia di un ragazzino geniale e un robot coccoloso nel nuovo film Disney Big Hero 6. Tutti segreti da uno dei produttori, Roy Salvatore Conley. Well, the great aspect of making films and the great aspect of making animated films is it takes La questione fondamentale di fare film e soprattutto film di animazione è che ci si mette moltissimo tempo a svilupparli. Il processo di realizzazione prende almeno 4 anni. Ogni 12 settimane lo riguardiamo, prima in forma di storyboard, cioè tavole disegnate in sequenza, e ogni 12 settimane ci chiediamo: stiamo raccontando la storia giusta? Cosa dobbiamo cambiare? Cosa dobbiamo fare? And through that, new themes arrive each time. Attraverso questo processo, ogni volta arrivano cose nuove, temi nuovi. Mano a mano vediamo che un tema diventa preminente e che altri temi che abbiamo esplorato resistono sullo sfondo, quasi come accordi nella musica. Così viene fuori una storia portante che funziona. Ma ci sono altri sottotemi che rendono il film ricco, divertente, gustoso. But then there's all these little sub-themes that make it so rich and fun and enjoyable. Vediamo se ho capito. Un uomo con una maschera kabuki vi ha attaccato con dei robot volanti in miniatura. Microbot, Baymax, diglielo. Sì, agente. Microbot. Sì, li controllava telepaticamente con un neurotrasmettitore. Andiamo! Non sono veloce. Me ne sono accorto! Dai! Quindi il signor Kabuki ha usato la telepatia per attaccare lei e l'uomo palla. I ragazzi sullo schermo assomigliano molto ai ragazzi che andranno a vedere il film. Yeah, well, you know, our hope is the young, right? We really look. Sì, i ragazzi sono la nostra speranza. Noi guardiamo sempre a loro. Quello che amo di questo film è che è una celebrazione di ragazzi in gambissima, una celebrazione della tecnologia. Non si tratta proprio di supereroi. Sono ragazzi molto intelligenti che conoscono bene la tecnologia. Il loro superpotere è usare bene la tecnologia e credo sia un grande messaggio per i ragazzi oggi. And I think that's a great message to kids today. So che sembra assurdo. Ragazzo, io chiamerei i tuoi genitori e li farei venire qui. Cosa? Scrivi nome e numero di telefono su questo pezzo di carta così può. Dobbiamo catturare quel tizio, ma prima ti servirà un upgrade. Sì! Nuove tecnologie, nuovo software, ma anche cuore, immaginazione, devono andare insieme. Yeah, well, with every film that we make, there's new technology, and so technology becomes. Ogni volta che facciamo un film, c'è una nuova tecnologia. La tecnologia diventa un aiuto nello storytelling, nel raccontare delle storie. Quello che desideri in fondo è una grande storia e ci deve essere una tecnologia per supportarla. In questo film abbiamo un brand new lighting system that I think it's spectacular and I think. In questo film abbiamo un sistema totalmente nuovo di illuminazione, qualcosa di spettacolare. Penso che nessuno abbia mai visto delle immagini del genere sullo schermo. But if the story isn't good. Ma se la storia non è buona, le immagini non significano nulla. Per questo ci mettiamo tanto a costruire le storie. Questo dovrebbe essere sempre l'obiettivo da tenere a mente. La tecnologia è lì per sostenerlo. Un pazzo in maschera cerca di ucciderci! Non è fico? Sì, insomma, è spaventoso, ma anche fico! Che ti ha preso? Batteria scarico. Sei tu, tesoro? Siamo saltati da una finestra. Che è stato? Siamo saltati da una finestra. Bimbo peloso. Bimbo peloso. È il primo supereroe coccoloso della Marvel. Yeah, you know, Baymax is such an amazing character. Sì, Baymax è straordinario. Alla base ci sono tantissime ricerche. Siamo stati in tutto il mondo, all'Università di Tokyo, nel loro programma di robotica, all'MIT nel Massachusetts, e finalmente abbiamo trovato al programma di robotica dell'Università Carnegie Mellon questa tecnologia a base di vinile chiamata Soft Robotics, robotica morbida. Called Soft Robotics, and as soon as we saw that, we knew we had our huggable robot. Non appena l'abbiamo vista, abbiamo capito che avevamo trovato il nostro robot coccoloso. È interessante perché la soft robotics è stata sviluppata per le attrezzature mediche, perché quando questi robot interagiscono col paziente, non devono fargli male, non devono urtarlo. Questa tecnologia all'avanguardia ci ha dato l'idea del nostro robot coccoloso. That gave us our huggable robot. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Roy Salvatore Conley. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.